Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, puntata particolare perché alla vigilia delle festività di Pasqua, come ricordavamo anche ieri, le borse sono chiuse, si muove il mercato dei cambi, ma insomma l'euro è 1,4340 sul franco svizzero, è 1,3477 sul dollaro. Ne approfitteremo, oltre che per raccontare la cronaca di questa giornata economico-finanziaria, che comunque c'è, per affrontare il tema degli imprenditori che investono in un periodo di grande invece aumento della disoccupazione, della cassa integrazione, investono proprio sugli uomini, un tema diciamo che viene bene, si lega molto anche a questo periodo pasquale, ma investono sugli uomini non in maniera così aleatoria, generica o retorica, ma proprio puntando sul fattore umano per reggere la competizione a livello internazionale. Due storie molto belle che abbiamo voluto mettere assieme. Poi parleremo del tema delle materie prime, tensioni, lo ricordavamo già ieri, sulle materie prime a livello mondiale, i prezzi non solo del petrolio ma di tutte le materie prime sono in rialzo, e del petrolio parleremo chiaramente per quello che ha a che fare con la benzina, perché le polemiche continuano, anche se i petrolieri e soprattutto anche i distributori, chi rappresenta le reti di distribuzione del carburante, fanno notare che i prezzi sono fermi da 2 settimane, sono tutti sopra 1,4 euro, ma non si sono mossi per quello che riguarda il periodo pasquale. In realtà c'è chi potrebbe sostenere che si sono mossi un po' prima, ma sempre di questo si tratta, anche perché il raffronto con un anno fa pone il petrolio a 10, pone il prezzo del pieno a 10 euro in più in media a pieno di benzina. Parleremo anche appunto del land grabbing, un termine inglese per indicare una vera e propria conquista o neocolonialismo, come lo chiamano alcuni, delle terre soprattutto africane. L'aumento del valore delle materie prime si lega infatti anche alla necessità di produrre un numero sempre maggiore di materie prime, e questo avviene comprando, affittando, avendo accordi bilaterali centinaia di migliaia di ettari, 20 milioni di ettari negli ultimi anni di suolo, ripeto, soprattutto africano, ma non solo, c'è anche parte del sud-est asiatico. Serve a rifornire le economie emergenti, quindi soprattutto Cina, ma non solo, di materie prime per loro fondamentali che non producono, non necessariamente di carattere agricolo in senso alimentare, ma anche per approvvigionarsi di altre forme di materia prima. 349-238-6666 per i vostri sms. Un augurio di buona Pasqua in anticipo a tutti quelli che sono già in vacanza, chi è in macchina o sta lavorando invece. Iniziamo con le notizie in breve. E partiamo dal petrolio, visto che fa notizia la benzina. Il petrolio è sempre in rialzo, continua a guadagnare scalino dopo scalino. $85,37 questa mattina, l'ultimo prezzo del petrolio che si riferisce al mercato in realtà after hours, comunque sempre alto, 85,37 sono livelli alti. Ripeto, i petrolieri ribadiscono che nonostante la fuga in avanti delle quotazioni internazionali non ci sono state ripercussioni sui prezzi dei carburanti sulla rete italiana. Da questa mattina Shell però ha ritoccato di 0,3 centesimi il prezzo di riferimento, portandolo così a 1,422 euro al litro, e restano ferme tutte le altre compagnie. Ma non ci stanno i Kodakons, che hanno presentato oggi un esposto a 104 procure della Repubblica sui listini dei carburanti. I rincari registrati nelle ultime settimane dei prezzi dei carburanti sono eccessivi e portano i listini a livelli preoccupanti, si legge nel ricorso, a tutto danno di milioni di automobilisti che in queste ore si stanno mettendo in viaggio. La Ford ha richiamato 4.600 Mondeo dal mercato cinese a causa di un problema al sistema di bloccaggio delle porte posteriori per bambini, ma la notizia più interessante nel settore auto a nostro avviso riguarda la General Motors. Perché? Perché in realtà la General Motors ha venduto più auto in Cina a marzo che negli Stati Uniti, e anche questi sono segni dei tempi. Praticamente l'ho comunicato alla stessa General Motors: le auto vendute in Cina, dove il gruppo di Detroit è il primo produttore estero, sono balzate, hanno avuto una crescita del 68%, 230.000 veicoli, superando quindi i livelli di vendita di General Motors negli Stati Uniti. Dalla Cina comunque arrivano sempre timori di una bolla finanziaria, di una bolla dell'inflazione. Lo ha scritto la stessa Banca Popolare Cinese nel rapporto 2009 sui mercati finanziari. Ha detto: attenzione, in alcuni settori dell'economia mondiale stanno emergendo nuove bolle finanziarie pronte ad esplodere. E soprattutto la Banca Popolare Cinese punta l'indice contro il rapido aumento dei prezzi di alcune attività finanziarie. In sostanza, anche secondo la Banca Centrale Cinese, c'è un eccesso di liquidità, politica monetaria troppo accomodante, lo chiama, cioè tassi di interesse troppo bassi, costo del denaro troppo basso, e secondo l'istituto questo sta generando nuove bolle finanziarie, oltre che tra l'altro mantenere basso il dollaro, anche perché il dollaro non riesce, secondo l'analisi della Banca Popolare Cinese, a recuperare potere d'acquisto nei confronti dell'euro e di altre valute a causa dell'elevato deficit fiscale americano. Buone notizie però dagli Stati Uniti proprio sul fronte occupazione. Praticamente a marzo sono stati creati 162.000 posti di lavoro. Il dato è un po' più basso rispetto alle attese, ma è il maggior rialzo quanto a creazione di posti di lavoro da 3 anni a questa parte, tant'è che il tasso di disoccupazione americano è rimasto fermo al 9,7%. Questa è, diciamo, la parte buona della notizia. C'è una parte invece più negativa. Dei 15 milioni di disoccupati che attualmente si contano in America, il 44%, è quasi la metà, quindi è rappresentato da coloro che sono senza lavoro da più di 6 mesi. E questo è un record, perché l'America ha un mercato del lavoro, sì, in cui si viene espulsi in maniera abbastanza facile e flessibile, però si viene anche riassorbiti in maniera molto rapida e flessibile. Non capitava infatti dal 1981 un dato del genere, ma nell'81 fu comunque più basso, perché era pari al 26% del totale il numero di disoccupati che si chiamano in gergo di lungo termine. Adesso invece si è toccato il 44% sulla media totale, e quindi è il record, secondo quanto riferisce il Dipartimento del Lavoro americano, in tutte le statistiche. Il dollaro però si è messo a correre, soprattutto nei confronti dello yen. Dopo il dato, infatti, è andato a 94,6, adesso ha fatto 94,3. Dopo il dato sulla disoccupazione americana è risultata decisamente migliore, anzi si sono creati posti di lavoro. I conti pubblici italiani, e veniamo quindi al nostro primo tema d'apertura. Allora, l'Istat ha certificato un rapporto deficit PIL nel 2009 al 5,2%, nel 2008 fu del 2,7% il nostro deficit, quindi si è duplicato. Tra l'altro non include questo dato l'effetto di operazioni swap. Comunque il dato di oggi è il peggior dato dal 1996 quanto a deficit, quindi 13 anni che non si vedeva un deficit al 5,2%. E l'avanzo primario è negativo per la prima volta dal 1991, il primo calo infatti. Sono calate del 2% le entrate totali nel 2009, è un calo dell'1,2% nell'ultimo trimestre. Insomma, non è una bella notizia, perché insomma l'avanzo primario è fondamentale per la tenuta dei conti pubblici. C'è però un effetto dello scudo fiscale sulle entrate: 5 miliardi nel quarto trimestre infatti 2009, le entrate in conto capitale sono risultate in forte crescita, e appunto soprattutto per i 5 miliardi di versamenti una tantum come tassa sullo scudo fiscale sui capitali rientrati. Ancora la Guardia di Finanza, e qui arriviamo veramente all'ultima notizia. La Guardia di Finanza oggi su alcuni giornali, insomma, ha contestato un imprenditore di Cremona, di cui non ha reso noto però il nome, di aver nascosto al fisco ben 164 milioni di euro. 164 milioni di euro in un paese in cui metà dei contribuenti dichiara 15.000 euro lordi l'anno, due terzi 20.000 euro lordi l'anno, e i contribuenti sopra i 100.000 euro lordi l'anno sono quelli tutti pensionati o dipendenti, la stessa cosa anche per quelli sopra i 200.000 euro lordi l'anno, sono 87.000 in tutto, di cui 70.000 pensionati e dipendenti, per cui di lavoratori autonomi sopra i 200.000 euro lordi l'anno ce ne sono in tutto il paese solo 13.000. Ma dicevamo dell'imprenditore di Cremona, la cosa incredibile è che, insomma, 164 milioni di euro nascosti al fisco. La Guardia di Finanza contesta che all'imprenditore di non pagare il fisco dal 2001 a oggi, non ha pagato un centesimo. In compenso aveva un elicottero parcheggiato in una piazzola dell'aeroporto cremonese e poi un palazzo cinquecentesco nel centro storico della città, barche e auto di lusso. Questo, diciamo, è l'esempio negativo, e visto che siamo in periodo pasquale mi interessa invece portare anche esempi positivi, in un giorno in cui comunque la Banca d'Italia fa sapere, mettendo anche un po' fine a molte polemiche, che continua a essere molto difficile ottenere credito per le imprese. È calato del 3% nel quarto trimestre 2009 l'ammontare di credito concesso alle imprese, soprattutto è calato nel centro-nord. Molto più facile invece avere credito per le imprese del sud, più 4% in Sicilia, più 1,2% in Puglia, più 0,5% in Campania. Al nord invece diminuiscono i prestiti alle aziende, meno 2,7% in Piemonte, meno 4,6% in Liguria, meno 3,8% in Lombardia. Dicevo, l'imprenditore di cui avete letto oggi è sicuramente un esempio negativo da citare come esempio negativo, perché il ruolo sociale dell'imprenditore più volte l'abbiamo rivendicato e sottolineato, e allora per invece dare esempi positivi cerchiamo di capire cosa fanno, ne abbiamo scelti due, degli imprenditori spesso citati a modello per il loro atteggiamento umanista, alcuni direbbero cristiano, non interessano le definizioni, è comunque un atteggiamento che pone il lavoratore, il collaboratore al centro della competitività che un'impresa può raggiungere. Mentre vedo vari commenti al 349-238-6666, cerchiamo di capire come si può anche competere in un mondo che cambia, con una crisi che morde, partendo dalla variabile umana. I nomi forse li conoscete già, ma insomma io saluto e ringrazio e auguro a questo punto anche buona Pasqua. Da un lato Brunello Cucinelli, che è presidente amministratore delegato di Solomeo, azienda che opera in un borgo in provincia di Perugia. Cucinelli è un nome celebre nella produzione di cashmere colorati, ha vinto il premio di Confindustria per la valorizzazione del territorio e anche il premio Ernest Young imprenditore dell'anno nel 2009. Buonasera Cucinelli. Buonasera a voi, auguri, buona Pasqua. Auguri anche a lei. E dall'altra parte un imprenditore che ospitammo anche lui una volta, un anno e mezzo fa, divenne subito un mito per molti ascoltatori, è il presidente del gruppo di distribuzione industriale Arwell d'Italia, è presidente anche di una Onlus, Mirko Gasparotto, buonasera anche a lei. Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Allora, grazie anche a Gasparotto perché è all'estero per lavoro e ci ha raggiunto in collegamento. Allora, io senza tanta retorica però, ma non molto concreti, due storie. Cucinelli, lei fattura 155 milioni di euro, ma la cosa interessante è che il 20%, cioè un quinto di questo fatturato, viene destinato a ristrutturare il borgo dove opera la sua azienda. E nel frattempo non è che si è dimenticato di fare l'imprenditore, come alcuni scrivono, no? Attenzione a essere troppo umanisti, vedo alcuni messaggi che arrivano al 349-238-6666, perché l'azienda è cresciuta, più 63% l'export, più 30% fatturato, a 500 addetti. Allora, lei iniziò nel 79 a 25 anni con 500.000 lire che gli prestò la banca, assunse tre operaie, comprò 3 kg di cashmere, ci ha messo il colore brillante ed è lì nato il suo percorso. Che cosa vuol dire essere un imprenditore umanista? Perché fin qua, diciamo, questa è la storia di qualunque imprenditore, di successo, ma, chiaramente. Ma le dico ancora la verità, io avevo un grande sogno nella mia vita che era rendere il lavoro dell'uomo più umano, cioè io volevo migliorare le condizioni morale ed economica del lavoratore. Ma questo ho preso spunto unicamente da mio padre, perché prima facevamo i contadini, abbiamo vissuto un'infanzia serena, bella, poi quando è andato a fare l'operaio veniva spesso umiliato e io non capivo questo comportamento. Quindi probabilmente lì ero ancora ragazzetto e mi sono detto: qualsiasi cosa farò nella vita vorrei farla per la dignità dell'uomo. Perché vede, c'è un problema di fondo. Noi abbiamo bisogno, almeno noi, facciamo un prodotto di grande qualità e di grande artigianalità, di grande manualità, no? Quindi come posso io convincere un giovane 23enne a venire a lavorare nella mia impresa dandogli 900 euro, perché questo dovrebbe essere il suo compenso? Allora volevo fare qualche cosa di diverso, quindi da una parte volevo convincerlo a venire a lavorare in un'impresa dove i luoghi fossero leggermente migliori, il suo stipendio un po' più alto e una parte del profitto destinato all'umanità, come mi hanno educato i miei grandi maestri. E allora forse lui stesso in qualche maniera si sentirà onorato di aver partecipato alla costruzione di un teatro piuttosto che di un ospedale, non so che cosa, mentre realizza il suo sogno, che è il suo lavoro quotidiano. Quindi non è che ci sono strategie particolari. Qualche strategia però l'ha messa in campo. Intanto, ripeto, stiamo parlando di imprenditori di successo, perché sarebbe troppo facile fare una puntata come questa con imprenditori che fanno beneficenza. Nessuno sta contestando. L'accumulo di capitale è assolutamente un diritto, ed è un diritto se uno ha successo nella vita. Qui si tratta di capire come di far capire, ma speriamo perlomeno, come un approccio umanista, ripeto, cristiano, chiamatelo come volete, non mi interessa, rende il luogo di lavoro un luogo di lavoro migliore, e quindi il luogo di lavoro e l'impresa più competitiva. Le due cose si legano moltissimo. Comunque, lei nel caso concreto, se non ricordo male, paga i dipendenti in busta paga un 20% in più del contratto nazionale, e ho ben capito, Cucinelli, lei li obbliga ad andare a casa alle 6 di pomeriggio? Cioè non possono fermare? Sì, perché guardi, c'è una bellissima espressione di San Benedetto quando dice che l'essere umano ogni giorno deve riposare la mente con lo studio, la preghiera con l'anima e il corpo, e allora forse il giorno dopo, quando viene al lavoro, quell'essere umano è leggermente migliore, quando ha vissuto con la sua famiglia, quando ha studiato, quando ha vissuto la sua bella vita, capisce? Perché guardi, io insisto che il lavoro, specialmente manuale, da operaio, è ripetitivo, e quindi dobbiamo trovare una formula migliore, un po' più moderna, perché vede, contrariamente a ciò che è stato fatto a mio padre e ai miei fratelli, che venivano offesi e comunque facevano il lavoro senza conoscere niente degli utili o delle perdite dell'azienda e quindi delle proprietà del loro datore di lavoro, adesso un ragazzo di 23 anni il giorno dopo sa tutto, quindi credo che non si debba più raccontare niente di particolare se non la verità, ma io credo nella verità e io credo nei rapporti umani, credo nei sentimenti umani. Se io le do molto, dice San Francesco, lei sicuramente qualcosa mi dà, questo è, e io credo nell'essere umano, ecco. Beh, diciamo che in un paese che non potrà certo competere con la Cina sui costi del lavoro umano, ma sulla genialità, e non potrà certo competere sulla Cina sulla fame, è ovvio che i cinesi hanno molto più fame di noi, forse è il caso di riflettere se, oltre ad andare a delocalizzare, investire all'estero, chiedere sgravi fiscali, tutte cose corrette, chiedere alle banche di essere più vicine, tutte cose assolutamente corrette, forse anche, insomma, investire sulle persone, al di fuori della retorica, tutti dicono che è importante investire sulle persone, poi in realtà pochi lo fanno, è un elemento competitivo. Ripeto, non stiamo facendo una puntata così perché siamo sotto Pasqua, di carattere un po' buonista, e a chi scrive se si tratta dell'atteggiamento cooperativista rosso, mi sembra, dalle parole di Cucinelli sentiamo che Gasparotto, che proprio abbia preso una cantonata, magari perché oggi c'è molto sole fuori. Allora, Gasparotto, anche per lei un breve profilo. Lei ha iniziato a lavorare nell'Harwell, di cui adesso appunto è il numero uno, come facchino porta bombole per le saldatrici, giusto? Sì, giusto, corretto. Allora, poi ha fatto 1983. Ecco, quindi proprio il livello più basso. Poi è diventato un venditore, poi direttore commerciale e poi ha fatto l'amministratore delegato. Adesso lei ha applicato una filosofia che si chiama delle partecipazioni orizzontali, perché lei ha 1500 collaboratori, 150 aziende in cui partecipa nel capitale, se ho ben capito, e oltre 300 milioni di fatturato aggregato. Che cosa vuol dire partecipare in maniera orizzontale? Poi veniamo all'aspetto umano. Diciamo che significa aiutare gli altri a crescere come siamo cresciuti noi, quindi il mondo della distribuzione industriale in Italia è molto frazionato e la partecipazione ad altri distributori industriali più piccoli significa dare la nostra esperienza, dire loro come abbiano sbagliato, evitare che loro sbaglino nelle loro province, nelle loro zone dove operano praticamente. Quindi è una strategia di crescita facendo squadra con delle altre aziende. Per cui lei compra delle partecipazioni, ma non impone poi il modello, il ruolo, cioè non colonizza come fanno alcuni quando prendono quote? No, noi prendiamo quote per fare della strada insieme, per crescere insieme, per svilupparci insieme, perché la realtà è quella che in Italia le aziende sono troppo piccole, quindi se non facciamo massa critica non riusciamo a essere competitivi. Facendo in questa maniera si lascia l'imprenditore al proprio posto e noi ci mettiamo di fianco per dare dei suggerimenti e per incrementare le loro potenzialità di sviluppo. Ed è stata fino ad oggi una strategia vincente, diciamo. Ecco, sempre in tema di strategie, è vero che lei tempo fa, qualche anno fa, si è tolto da tutte le cariche operative? Assolutamente sì, a 40 anni rientrava nei progetti della mia vita, perché da 20 anni a 40 ho solo lavorato e quindi non era possibile continuare a questi ritmi, se no non avrei si sarebbe raggiunto l'equilibrio che una persona, un individuo deve avere nella vita sostanzialmente, e ho delegato tutti quanti i ruoli operativi, ma devo dire che il gruppo si è sviluppato alla grande, insomma. Ecco, qui veniamo a un aspetto delicatissimo, cioè lei ha fatto tutti gli scalini, appunto, da fattorino, è arrivato a essere il numero uno. Di solito quando uno arriva nello scranno del potere, nella parte più alta, in questo paese veniamo da una lunga tradizione in cui le sedie si mollano difficilmente, non ha avuto paura nel cedere poi il potere di amministratore delegato a altri suoi collaboratori che le rovinassero, le bruciassero, distruggessero il valore che lei aveva accumulato? Cioè, com'è che si fa a farlo senza però mettere ogni giorno il becco nel lavoro degli altri? Beh, direi prima di tutto si scelgono le persone giuste e io ho scelto degli amministratori che oggi gestiscono il gruppo veramente bene, quindi la scelta delle persone giuste con la scala di valori giusti è il primo posto, poi gli si dà gli strumenti giusti, ci si mette di fianco per fare dei counseling nel momento in cui queste persone hanno bisogno, sbagliano, hanno bisogno di essere corrette, e devo dire che ho tirato fuori il meglio di queste persone, sto tirando fuori il meglio di queste persone vivendo una vita da imprenditore e ritagliandomi un ruolo strategico e di pianificazione nello sviluppo del gruppo. Ancora sulla variabile umana, poi dopo il metro e la pubblicità vi chiederò di dare qualche consiglio, vista la situazione difficilissima che stanno affrontando molte imprese e dove la variabile umana diventa veramente un gioco delle volte durissimo, a chi rinunciare quando devi fare delle scelte difficilissime come rinunciare ad alcuni dei tuoi collaboratori. Però Gasparotto, lei dice scegliere le persone giuste, sì, vabbè, ho capito, fosse così facile lo faremmo tutti. Qual è, diciamo, il criterio per arrivare ad avere dei collaboratori così validi per cui tu poi ti puoi fidare, e i numeri, perché sempre di impresa stiamo parlando, poi ti danno ragione, aumenta il fatturato, aumentano gli utili, aumentano i margini? Beh, il mio metodo personale è la sincronizzazione delle mappe mentali, cioè scegliere delle persone che possono stare insieme con me professionalmente e che abbiano dei valori che siano affini ai miei. È un metodo abbastanza sistematico e che mi permette di avere un divorzio brevissimamente se lo devo avere, o invece avere un rapporto di lavoro molto lungo perché siamo uguali, insomma. Poi la creazione di un equilibrio fra la tua vita, fra il management, fra la proprietà, fra i collaboratori, cioè tutto deve avere un certo equilibrio. Mi associo molto al collega Cucinelli, perché quando le persone stanno bene stiamo bene anche noi, quando il gruppo sta bene stiamo bene anche noi. Io recentemente ho fondato il Club Mondiale della Formazione, che per portare tutti i migliori formatori del mondo in Italia a disposizione dei miei collaboratori, cosa che io non ho potuto avere a suo tempo perché ho dovuto girare il mondo per vederli, e il ritorno che ho avuto dai miei collaboratori nel portare a Vicenza i migliori formatori del mondo a loro disposizione per farli crescere è stato enorme, è stato percepito come un valore aggiunto enorme. E quindi quando tu dai ai collaboratori e crei equilibrio, ti torna indietro tutto duplicato, assolutamente. Quanti sono i bambini che invece... Ma cioè, lei cosa fa innanzitutto? Perché insomma, lei fa il presidente, si gode i soldi che ha accumulato, lavora sugli uomini e sugli... E su, con i suoi collaboratori, dalla sua parte appunto più diciamo di rapporto umano, di percorso da fare assieme, ma poi fa anche altro, mi risulta, no? Allora, io principalmente a scanso di cui ci lavoro, e questa è la cosa principale. Poi ho creato sicuramente una suddivisione del tempo che mi permette di dedicare dello spazio al mio hobby, che è la formazione, la crescita personale e alla, al discorso della solidarietà. Diciamo che ridò indietro un po' di fortuna che non ho scelto io di avere, perché a 47 anni uno è sempre arrivato sano, quindi non l'ho scelto io, c'è stato il buon Dio che ha permesso questo. E abbiamo creato questa onlus con i criteri imprenditoriali, 8.000 bambini, 17 scuole in 12 stati, serviti una piccola onlus rispetto ai grandi nomi del panorama italiano, ma una piccola onlus gestita in maniera imprenditoriale. E il nostro obiettivo con questa onlus è quello di salvare la vita o cambiare la vita di almeno 100.000 bambini. 100.000? 100.000 bambini. E come fate? Prima di morire voglio che 100.000 bambini abbiano la fortuna, la possibilità di essere formati, di conoscere l'inglese, di conoscere il computer e di avere la possibilità di mettere fuori il naso lo stato dove sono nati i poverini. E dove sono questi bambini, visto che già 8.000 fanno parte del vostro India, percorso? India, Brasile, Afghanistan, Madagascar, Nepal, Angola, ci sono spazi un po' troppo, allora, gestiti molto... Cioè, tutti i paesi diciamo in via di sviluppo o ancora diciamo, nel sottosviluppo. Dunque, mi sembra di poter dire che ci sono due tratti comuni in due persone che abitano in due regioni geografiche diverse, sono due persone diverse, si occupano di due cose completamente diverse. Però uno è l'investimento nelle persone vere, no? Nel capitale umano, che già sembra una cosa così. Il secondo aspetto, a mio avviso, è anche quello del ritornare, lo diceva prima Cucinelli, che spende un quinto ogni anno del fatturato per ristrutturare il borgo in cui opera, lo diceva Gasparotto per quello che riguarda l'attività di onlus e di pagare l'istruzione, arrivare a pagare l'istruzione a 100.000 bambini entro la fine della sua vita, e comunque già 8.000 sono riusciti a essere aiutati in questo modo. Dopo il metro e la pubblicità, vi faccio una domanda che non è provocatoria ma è serissima: tutto questo non è un po' un'utopia così rinascimentale, umanista, mentre dall'altra parte abbiamo 1.700.000.000 di cinesi che premono, che fanno dumping, che concorrono, che non hanno orari, dove non ci sono, dove i diritti diciamo del lavoratore sono una cosa un po' diversa dai nostri per essere buoni, insomma, dove c'è una fame di conquista che può far sembrare voi due un po' così degli utopisti che stanno in un eremo, oppure da qui può arrivare un modello che metta in crisi anche il modello cinese, nel senso un modello diverso che ti permette di avere una qualità e un valore aggiunto che deriva dall'approccio. La risposta dopo, 349-238-6666 per i vostri sms. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, per quello che riguarda le domande che stanno arrivando a Cucinelli, Gasparotto, alcuni testimoniano invece che in molti altri posti funziona diversamente. Leggo adesso un direttore commerciale che è direttore commerciale da 10 anni, quando ho fatto presente all'amministratore delegato l'importanza della formazione mi è stato risposto che i venditori sono carne da macello. Vabbè, infatti mi sembra che sia un ex amministratore delegato. Detto questo, la domanda c'è tutta, Gasparotto e Cucinelli: non siete un po' degli utopisti? L'Europa è stata piena di utopie nei secoli scorsi, e è vero che i numeri stanno dalla vostra parte, cioè i fatturati aumentano, l'utile aumenta e voi crescete come gruppi, quindi dal punto di vista diciamo dell'imprenditore nulla da obiettare, ma di fronte a noi abbiamo un miliardo abbondante di cinesi e indiani, gli ultimi arrivati, che hanno fame, che competono in qualunque modo possibile, che se ne fregano l'umanesimo e di matrice cristiana europea, che pensano diciamo solo a migliorare la loro qualità di vita in termini materiali. E noi diciamo, cosa facciamo? Ci mettiamo a ragionare sull'uomo, il borgo medievale, l'importanza del rapporto umano? Non rischiamo, Gasparotto? Beh, direi direi che i paesi BRIC sostanzialmente sono su un momento storico economico diverso e arriveranno piano piano anche loro all'esigenza assolutamente di equilibrio e di bilanciamento fra la crescita economica, fra la creazione di profitti e il benessere delle persone che concorrono a generarli. E quindi noi siamo già su questa fase e quindi dobbiamo pensare, tra l'altro non credo che siamo delle mosche bianche, conosco moltissimi altri colleghi imprenditori che stanno veramente perseguendo questa politica di benessere complessivo dell'azienda, dei collaboratori, della storia eccetera, perché solo in questa maniera, facendo squadra in questa maniera, si riesce a tenere botta anche ad anni come l'anno appena concluso, 2009, che è stato veramente difficile. Quindi loro, questi paesi qua, arriveranno anche loro a questa necessità qua, secondo il mio punto di vista. Cucinelli. Sì, ma guardi, io voglio competere, e perché no? Lo vorrei fare in un'altra maniera, perché c'è una cosa nuova. Il ragazzo 23enne chiaramente sa tutto, quindi io credo che noi che siamo padri e maestri delle grandi arti, specialmente noi italiani, potremmo essere anche coloro che coniano un rapporto diverso. Ma quand'è che la creatività è altissima? Quando il tasso di benessere spirituale e materiale ed economico è alto. Quando il rapporto è alto, guardi, c'è una bellissima espressione di Benedetto quando dice: devi essere rigoroso e dolce, esigentissimo maestro, amabilissimo padre. Allora, io voglio essere competitivo, noi siamo geniali, possiamo fare dei prodotti speciali, a una condizione: dobbiamo avere dei rapporti totalmente diversi, perché i ragazzi, contrariamente a mio padre, fino all'antica Grecia non conoscevano niente del loro datore di lavoro, non conoscevano i profitti, è tutto nuovo per me. La cosa che mi impressiona è che nessuno di voi ha parlato di fisco, di tasse, di dazi, di infrastrutture, cioè sembra che viviate in un altro paese, Gasparotto. No, non è che viviamo nel nostro paese, in Italia, eccetera, ma direi che l'organizzazione dell'azienda trova nella sua governance il rispetto del rapporto con il fisco, del rapporto con l'imposta e quant'altro. A noi, ad esempio, a me è deputata proprio la gestione del gruppo, la gestione umana del gruppo, per quello che mi sono concentrato su questo, e credo che questo mi dia un ritorno enorme, ma sicuramente viviamo assolutamente in un momento, in un mondo competitivo dove l'imposizione fiscale ha la sua rilevanza, eccetera, ma quindi non niente da dire su questo, però l'importante è partire assolutamente dall'uomo, dalle persone, perché è solo dalle persone che noi veniamo fuori. Io mi ricordo l'anno scorso, la scorsa Pasqua, esattamente, vivevamo un periodo veramente difficile perché eravamo consapevoli che c'era una crisi, eccetera. Facendo squadra, dando sicurezza alle persone, dando serenità alle persone, scrivendo dei messaggi e inoltrando dei messaggi che dicono ce la faremo assolutamente, il gruppo ha reagito alla meraviglia. E adesso su questo canale qua che io voglio concentrarmi e che sta dandoci i maggiori ritorni. Cucinelli, anche per lei, e poi c'è un'altra componente che mi sembra che non emerga nel vostro ragionamento, cioè l'avidità. Noi spesso commentiamo questi banchieri di Wall Street, ma non è che vogliamo criminalizzarli, oddio, che non contenti dei danni che hanno creato, si sono rimessi a distribuire bonus a centinaia e migliaia di dollari, nonostante le banche stesse abbiano licenziato migliaia, decine di migliaia di dipendenti. Cos'è la chiave di volta? È che a un certo momento l'imprenditore deve, diciamo, distinguere tra quello che è accumulo di capitale vero e proprio e invece quella che diventa avidità, visto che siete cristiani, lo conoscete anche come peccato capitale. Cucinelli. No, ma guardi, io mi sento custode della mia fabbrica, maggior azionista e maggior responsabile, quindi sentendomi custode tutto diventa abbastanza più normale, se vuole anche abbastanza più eterno, no? Quindi io trovo fondamentale cambiare rapporto, avere stima delle persone. Io voglio vivere nella mia bella Italia, nella mia amatissima Umbria, voglio rispettare le leggi che il mio governo mi dà, come dice Socrate, a volte mi piacciono più, a volte un po' meno, ma io non voglio andare a vivere, a lavorare da nessuna parte. Sono abbastanza convinto che con la nostra genialità, con la nostra capacità di rapportarsi, possiamo produrre prodotti, manufatti di altissima qualità, di altissima artigianalità e, perché no, che hanno anche quel fascino tipicamente nostro, tipicamente italiano. Io non ho nessuna preoccupazione per il futuro, ha una condizione: dobbiamo avere il coraggio di dare agli altri quello che vorremmo noi se fossimo al loro posto, e cioè un ragazzo che guadagna 1000 euro al mese, qual è il sogno della sua vita? Qual è un genitore a 50 anni che può consigliare al figlio di andare a lavorare in fabbrica per 1.000 euro al mese. Ecco, è lì dove dobbiamo tornare indietro al vecchio Rinascimento, quando il valore manuale e la dignità dell'uomo aveva un grandissimo appunto valore. Ma quindi aumentando anche il salario? Ma guardi, io penso di sì. Le dico solo una semplice cosa del nostro prodotto: un capo nostro che va in vendita a 1.000 euro, in realtà sa che di manualità pura ci sono 67 euro, potremmo anche in qualche maniera portarlo a 80 euro e forse fare una cena a meno a New York, e abbiamo trovato i mezzi per i nostri collaboratori, che sono geniali e hanno passione, hanno dedizione e umanità nel lavoro. Allora, concludiamo. Io trovo che, come alcuni ascoltatori riconoscono nel racconto delle esperienze imprenditoriali, manageriali di Brunello Cucinelli, di Mirko Gasparotto, insomma, valgano qualche corso in qualche master o scuola di formazione, perché sennò poi ragionare sugli schemi anglosassoni, insomma, ogni tanto ci fa perdere di vista la realtà. Detto ciò, a chi ci chiede: ma cosa, siete due monaci? Non penso che facciate vita monacale. Cucinelli e Gasparotto, in una battuta, Cucinelli, no? Ovviamente no, io voglio fare la vita da imprenditore dal mattino alle 8 alla sera alle 6, con grande concentrazione, con tutti i miei ragazzi. Voglio far profitto, ma vorrei farlo con etica, dignità e morale. Questo è l'obiettivo, non so se riesco, ma l'obiettivo di vita mio è questo, è l'insegnamento proveniente da mio padre, cioè da come è stato trattato mio padre, cioè costantemente offeso. Io voglio far l'inverso, non ho studiato da qualche parte per mettere in pratica la dignità dell'uomo. Gasparotto, ci sta parlando col cilicio addosso? Non siamo dei monaci assolutamente, ma basta avere due qualità: la sobrietà e la congruenza. Io penso che quando tu sei sobrio, anche l'ambiente in cui lavori, le persone che lavorano riconoscono, e la congruenza è un'altrettanta una qualità che l'imprenditore deve avere. Queste due sono le caratteristiche forse che mi contraddistinguono e che mi fanno avere una vita veramente libera e bilanciata in questo senso. No? È giusto che ci sia l'azionista, è giusto che l'imprenditore abbia un suo livello, una sua soddisfazione, ma io personalmente non voglio diventare il più ricco del cimitero, quindi non mi interessa strafare, mi interessa assolutamente vivere una vita in tranquillità e in serenità, soprattutto avere del tempo anche per la mia vita personale. Il più ricco del cimitero, chissà cosa se ne faranno certi finanziari di Wall Street, dei miliardi che hanno preso ieri guadagnandoli con gli hedge fund. Comunque 3,5 miliardi all'anno nei primi, per ogni singolo proprietario di hedge fund. Legali, tutto corretto, il sistema lo permette, non hanno rubato niente a nessuno, però insomma, nell'anno della grande disoccupazione, vedere che i primi 25 manager dei fondi speculativi hanno guadagnato insieme qualcosa come 24-27 miliardi di dollari, vuol dire una manovra finanziaria di un paese come l'Italia, anzi di due paesi come l'Italia. Ultima domanda, risposta secca, perché poi andiamo invece a toccare un tema delicatissimo come quello dell'acquisto a blocchi di milioni di ettari africani per far produrre materie prime alla Cina e altri paesi. Si chiama land grabbing, è un tema delicatissimo, ma Cucinelli prima e poi Gasparotto, veramente ce lo chiedono molti ascoltatori. Cucinelli, lei non teme con questa filosofia che lentamente qualche cinese, lo dico non per così in qualche modo criminalizzare i cinesi, ma insomma che qualche cinese si metta a produrre Kashmir a un costo che è un decimo del suo, e poi lei hai voglia a fare il borgo, a parlare di umanesimo, e questo le frega le quote di mercato? No, questo non sono d'accordo, sono convinto che possano produrre Kashmir benissimo, ma non avranno mai l'allure che abbiamo noi, quindi io dico che se noi facciamo un prodotto nella fascia altissima di grandissima qualità, artigianalità e creatività, abbiamo un futuro senza alcun dubbio. Allora, Gasparotto, dicono una cosa agli ascoltatori al 349-238-6666, nessuno ha detto che gli imprenditori così devono essere per forza cristiani, ho detto umanisti, insomma, umanesimo è una cosa ben precisa, è l'uomo al centro, non la religione al centro. Poi se uno è anche cristiano sono fatti i suoi, si parlava di un atteggiamento rivolto verso l'uomo, e molte religioni, da quello che so, pongono l'uomo al centro. Detto ciò, Gasparotto, anche per lei non teme che arrivi un bel distributore cinese o indiano e le faccia fuori tutto il mercato delle saldature, dei macchinari per saldare, della rete di distribuzione, lei poi ha voglia di fare sistema, dire ragazzi ce la facciamo, intanto quelli vi fregano sui prezzi, sui margini? dipende da quanto coeso è il gruppo e dipende da che tipo di tecnologie distributive sono sviluppate. Sicuramente tutto può avvenire, anche che il gruppo cinese arriva, eccetera, sicuramente, ma difendendoci bene, preparando bene le persone, eccetera, credo che i cervelli delle persone faranno ben difficile portarceli via da questo punto di vista. E allora bisogna lavorare, tornare a lavorare sulla mente umana delle persone che lavorano con te, sui cuori delle persone che lavorano con te, e far sì che loro stiano bene con te all'interno della tua avventura, all'interno del tuo sviluppo, della tua azienda. E attenzione, perché il capitale umano è l'unico capitale o materia prima che resta, delle volte scarseggia anche quella in Italia, però insomma l'unica materia prima che resta in questo paese, per il resto non c'è competizione sul costo del lavoro, sulle materie prime e sugli investimenti in infrastrutture. Grazie, grazie veramente a nome anche di tutti gli ascoltatori che vi stanno ringraziando, grazie a Mirko Gasparotto e a Brunello Cucinelli, buona Pasqua e ci risentiamo più avanti, perché ogni tanto torneremo su questi temi. E vabbè, sono contento che chi è al lavoro, chi è in macchina abbia capito lo spirito, perché, ma non vogliamo contrapporre in maniera manichea il miliardario squalo di Wall Street con gli imprenditori umanisti, però insomma da qualche parte, no? Un giudizio si potrà anche dare, non è che sono tutti uguali, quello che guadagna 3 miliardi e mezzo speculando sulla Grecia che esce dall'euro e quello che aumenta lo stipendio del 20% ai suoi dipendenti. Populismo? Vabbè, passiamo all'Africa, al neocolonialismo africano, il land grabbing. Ne parlo volentieri perché c'è un libro di una collega che si chiama Franca Roiatti, giornalista di Panorama e autrice appunto del libro Il nuovo colonialismo caccia le terre coltivabili. Franca, buonasera. Buonasera. Allora, per quello che riguarda il land grabbing, insomma, i numeri che io ho letto sono numeri inquietanti. 20 milioni di ettari negli ultimi 3 anni sono stati acquistati, prenotati, affittati. Come funziona? È difficile da dirsi, perché in realtà purtroppo non c'è molta trasparenza in tutto questo gran mercato della terra che è in corso, ma in genere funziona che aziende private, fondi di investimento, fondi sovrani, singoli personaggi molto ricchi si avvicinino a governi africani o dell'Asia sudorientale in generale e cerchino di affittare per lungo tempo o acquistare grandi estensioni di terra coltivabile per appunto decidere di seminarci e coltivarci sopra cereali e altri tipi di cibo da destinare appunto alla produzione di cibo o alla produzione di biocarburanti, a seconda di pure qual è il, il core business. Per cui attenzione che non è solo cibo, ma è anche e soprattutto biocarburanti e altre forme di materie prime. Siccome stiamo registrando, questo è l'aggancio con la cronaca, un aumento dei prezzi delle materie prime, il ferro tra l'80 e il 100% e anche altre materie prime, dopo il GR concludiamo su questo, perché il fenomeno è un fenomeno tra virgolette inquietante, cioè gli accordi bilaterali fanno sì che interi blocchi di alcuni paesi, tutti i diritti di pesca del Kenya, interi blocchi del Sudan, così vadano in affitto a Cina e altri paesi in via di sviluppo. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Dopo aver ascoltato dalla loro voce come si può fare impresa guadagnando, aumentando gli utili, aumentando i fatturati, ma ponendo anche i collaboratori e l'uomo al centro, ripeto, giustamente alcuni ascoltatori scrivono: attenzione, noi l'unica, se non capiamo che dobbiamo investire sull'unico capitale che abbiamo, quello umano e della formazione, non reggeremo mai il colpo con la concorrenza che invece è tutta fatta sui prezzi e sulla mancanza, se si può dire, di diritti anche dei lavoratori dei paesi emergenti. Non abbiamo futuro. Mi sembra che sia emerso chiaramente dalle testimonianze di Brunello Cucinelli e di Mirko Gasparotto. Vorrei concludere con Franca Roiatti sul tema del neocolonialismo, caccia le terre coltivabili, come si chiama il tuo libro, Franca. Università Bocconi è l'editore. Allora, di questi 20 milioni di ettari negli ultimi 3 anni di terra presa in affitto, acquistata, ci sono delle cifre incredibili. Cioè, il prezzo all'ettaro in Zambia è $350. In America o in Argentina il prezzo è 10 volte tanto, sarebbe almeno $3.500. Quali sono i più grandi acquirenti? Noi citiamo spesso la Cina, ma è la Cina che sta si sta comprando pezzi interi di Africa? Beh, non solo, devo dire che ci stanno mettendo molto impegno l'India stessa, con grandi imprenditori che sono attivi nel Corno d'Africa e molti altri paesi. I paesi del Golfo, l'Arabia Saudita è molto attiva, la Corea che è un grandissimo importatore di grano e quindi come tale, non avendo lo spazio per coltivarlo in casa, si rivolge all'estero. E beh, poi ci sono i fondi di investimento occidentali, americani, inglesi. Tanto la Cina non ha nessun problema anche a trattare con il Sudan, nonostante l'embargo mondiale per il genocidio in Darfur, no? Assolutamente, la Cina è stata uno dei primi paesi a credere, a scommettere sul Sudan, quando, anche sul petrolio sudanese, quando le compagnie occidentali a causa dell'embargo imposto al paese furono costrette a lasciare gli investimenti che avevano lì, la Cina ha continuato. Ma in Sudan sono attivi molti altri paesi dal punto di vista agricolo, se la Cina ha il primato per quanto riguarda il petrolio, in Sudan sono arrivati i coreani, sono arrivati i siriani, i giordani, sono arrivati molti paesi del Golfo anche a cercare terra coltivabile. Sì, e qui c'è un paradosso che veramente mi fa impazzire, per non dire altro, cioè il Sudan ha ceduto alla Cina, per esempio, un milione, se ho ben capito, 1,5 milioni, non alla Cina, ho detto una cavolata, agli stati del Golfo Persico, all'Egitto e alla Corea, 1,5 milioni di ettari di terra, in un paese che riceve i maggiori aiuti al mondo proprio per in genere alimentari, per far sopravvivere i bambini e le famiglie sudanesi. Sì, non soltanto il Sudan, direi che l'Etiopia è forse ancora più emblematico come caso, perché il Sudan certamente ha dalla sua, se non altro, di essere il paese più grande d'Africa e quindi di avere molta terra in qualche modo sulla carta disponibile, poi in realtà questo è tutto da verificare. Purtroppo sì, il Sudan, ma ribadisco, tallonato dall'Etiopia che sta facendo un enorme lavoro per attrarre investimenti, loro sono convinti che questo è il loro futuro, attrarre questo tipo di investimenti, cedere la loro terra per un dollaro all'ettaro all'anno di affitto in cambio di costruzione di strade o ipotetiche realizzazioni di infrastrutture che appunto poi rimangono comunque accordi sulla carta e i posti di lavoro che però anche questi poi sono sulla carta. Bisognerà vedere al lato pratico se poi a chi investe converrà davvero assumere molti contadini abitanti dell'Etiopia o del Sudan per mandare avanti i propri campi o se non sia invece molto più conveniente importare una serie di grandi trattori americani che possono lavorare su grandi estensioni con un uomo solo o comandati da un computer, insomma. Ecco, questo è l'ultimo tema, cioè, alcuni lo chiamano neocolonialismo, la vera differenza sarà rispetto al colonialismo bianco, diciamo, del secolo scorso, capire se poi c'è una ricchezza, una ricaduta anche in questi paesi oppure si può parlare tranquillamente di sfruttamento. Tra l'altro alcuni ci chiedono i prezzi delle materie prime, il cacao ha fatto più 4% nell'ultimo mese, il caffè più 6%, il più 12% il caffè nella cosiddetta qualità robusta. Allora, in un'ultima battuta, Franca Roiatti, neocolonialismo è un termine corretto o siamo noi che adesso facciamo le pulci agli altri dopo aver fatto i colonialisti col cappello Panama per secoli? Beh, insomma, neocolonialismo è un termine che ha coniato Jacques Diouf, che è il direttore generale della FAO e non è certamente un europeo, è un senegalese, quindi insomma forse lui ha maggior ragione, ha dei termini per dire questo. In realtà il punto è un altro, il punto è che l'agricoltura, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, ha un grande bisogno di capitali, questo lo hanno detto tutti e in molti modi. E, infatti le grandi organizzazioni internazionali stanno guardando anche con molta attenzione a tutto quanto sta accadendo intorno a questa svendita della terra, proprio perché si vuole evitare che questa interesse nei confronti di un settore negletto e così importante in realtà per le economie di questi paesi venga disperso e si disperda in modi che sono deleteri, come lo sono stati per l'appunto e che rimandano al colonialismo vero e proprio come l'abbiamo conosciuto noi. Di conseguenza questa è la grande sfida, cioè riuscire a trasformare questi investimenti in qualche cosa che porti ricadute concrete sulle popolazioni in via di sviluppo. Si sta lavorando su codici di condotta, codici etici, in realtà non si sa quanto questo possa valere, credo che forse ci sia necessario far capire ai governi di questi paesi che non è svendendo la propria terra, ipotecando il futuro delle proprie generazioni che si costruisce. No, questo è un discorso assolutamente corretto, è un discorso che viene meglio quando uno ha la pancia piena, però, perché sappiamo benissimo che in quei paesi... Assolutamente sì, c'è però il rischio che la pancia tra un po' sia ancora più vuota, cioè, e questo è lo spauracchio da evitare. E su questo hai assolutamente ragione. Grazie, grazie anche a Franca Roiatti. In questa puntata, ripeto, mercati chiusi, quindi possiamo anche non parlare di finanza quotidiana oggi e ragionare su temi più ampi. Grazie e buona Pasqua anche a te. Buona Pasqua. E allora, prima di arrivare a un tema invece che è molto molto di cronaca, cioè i prezzi della benzina, polemica, il petrolio che è a $85, dicono i petrolieri, no, ribattono i consumatori, siete voi che ogni volta quando sta per arrivare la Pasqua, il Natale o l'Epifania e ci sono milioni di italiani in macchina, alzate i prezzi. Vorrei aggiornarvi sulla notizia forse più importante per quello che riguarda la giornata economico-finanziaria. Conti pubblici, parliamo e torniamo a bomba sui temi classici del programma. I conti pubblici, oggi lì è stato diffuso il dato sul 2009, il deficit è schizzato al 5,2%, è il dato peggiore quanto a deficit nei nostri conti pubblici dal 1996, ma quello che preoccupa soprattutto è che per la prima volta anche l'avanzo primario è negativo, per la prima volta dal 1991. Cos'è l'avanzo primario? Ce l'avete chiesto? Ho dimenticato io di rispondere. È la differenza da quanto entra e esce nelle casse dello Stato tra entrate e spesa pubblica prima di pagare gli interessi sul debito, che sono circa 60 miliardi, 70 miliardi di euro l'anno, quello che paghiamo sul nostro debito. È negativa perché sono create del 2% le entrate totali nel 2009. I dati li ha commentati Raffaele Malizia, che è dirigente della contabilità nazionale dell'Istat, al microfono della nostra Paola Nania. Il quarto trimestre del 2009 chiaramente risente ancora della situazione particolarmente critica che fino a tutto appunto il quarto trimestre ha attraversato l'economia italiana, ma ci sono dei sintomi, come dire, di ripresa che si sono riflessi anche sulle grandezze di finanza pubblica. Prima fra tutto l'andamento, ad esempio nell'ultimo trimestre, delle imposte indirette, che come sa sono molto strettamente legate al ciclo economico, all'andamento del ciclo, e appunto queste imposte evidenziano una riduzione abbastanza significativa del tasso di decrescita che invece si era manifestato prepotentemente nel corso di tutto l'anno. Quindi segnali di ripresa che potrebbero continuare ovviamente nel 2010, quindi spiragli di uscita dalla crisi. Diciamo che la finanza pubblica in qualche modo un po' influisce sull'andamento del ciclo e un po' riflette quello che è l'andamento del ciclo, e quindi in questo momento siamo ancora in una fase abbastanza incerta. Tuttavia dei segnali, per quanto tenui, sicuramente ci sono. Così appunto l'Istat nel diffondere i dati pesanti sul deficit nel 2009, ma lo si sapeva. Adesso le informazioni sul traffico e poi benzina, petrolio, polemiche, consumatori che denunciano le compagnie petrolifere. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, ultima parte di Focus Economia, con voi come sempre Sebastiano Barisoni. Il tema, l'altro tema di oggi, molta polemica su alcuni giornali sui prezzi dei carburanti, che sono sopra 1,4 euro in molti casi. Siamo a 1,422, questa mattina la Shell ha ritoccato di 0,3 centesimi il prezzo di riferimento della sola verde. Con la Pasqua del 2009, un anno fa, la verde costava 1,20 euro al litro e per un pieno servono in media 10 euro e in più, in un periodo in cui gli italiani in movimento sono milioni. Per la precisazione, secondo il CESCAT saranno circa 10 milioni gli italiani in movimento nel periodo pasquale, Lombardia, Lazio, ma anche moltissime altre regioni, e la polemica l'abbiamo già toccata altre volte: i prezzi salgono a ridosso dei grandi ponti, delle festività natalizie e pasquali. Tra l'altro Adus, BFF dei consumatori praticamente hanno fatto ricorso al Codocon, ha denunciato per aggiotaggio sui rincari ha fatto un esposto a 104 procure della Repubblica di tutta Italia relativamente proprio ai listini dei carburanti. Allora vediamo di parlarne con i diretti responsabili. Iniziamo con un personaggio che spesso chiamiamo quando arrivano questi temi, mi dispiace, ma insomma non ne usciamo. Presidente dell'Unione Petrolifera, Pasquale De Vita, buonasera. Buonasera a voi. A lei viene già da ridere, ma io qua non so più da che parte prendere sto tema. Sono serissimo, sono. No. Beh, allora, il petrolio, voglio dire, un anno fa, se non ricordo male, viaggiava a 48 dollari al barile, adesso siamo a 85, quindi un po' di rincaro ci sta. L'accusa mi sembra un'altra. I rincari avvengono sempre tutti quanti sotto il periodo degli spostamenti, diciamo per le festività, e so già che lei mi dirà ma è due settimane che sono fermi, vabbè, uno li tocca due settimane prima, tanto poi li riabbassa due settimane dopo, cioè non è tanto il raffronto col petrolio, è che il petrolio è un po' che è 80 dollari, è un due mesi, tre mesi che sta tra 65 e 80 dollari, perché i rincari arrivano sempre sotto Pasqua o Natale o Epifania o i ponti? Senta, vediamo di non farci prendere anche noi da questa suggestione collettiva che è stata innescata come al solito dalle associazioni dei consumatori e quindi che ha portato a parlare di rincari sotto Pasqua quando, ripeto, e lei l'ha accennato, non solo sono 15 giorni che i prezzi non si muovono, tenga conto che sul mercato internazionale i prezzi della benzina e del gasolio cambiano tre volte al giorno, non è che sia un fatto statico. Ma non solo, ma che in questo momento ci stanno su gran parte della rete italiana, di tutte le aziende, sconti, offerte, promozioni proprio legate al periodo pasquale. Terzo elemento, teniamo conto che noi abbiamo una delta, una differenza con l'Europa che strutturalmente è intorno ai 3 centesimi, 3 centesimi e mezzo, lo sappiamo tutti. In questo momento siamo a 2 centesimi e mezzo, sia con delta con l'Europa, la differenza con l'Europa è al più basso livello dell'ultimo periodo. Ma come sono nate queste polemiche sul fatto del prezzo che si muove a Pasqua? Io credo che bisogna forse riprendersi un po' e stare forse con maggiore attenzione a queste cose. Io ho visto che anche il maggiore giornale italiano oggi è uscito con un titolo in prima pagina come se ci fosse un dramma nazionale. Io penso che sia stata così una che sia caduto anche lui nella trappola di queste associazioni che ovviamente lanciano messaggi a Natale. Lo sappiamo tutti che lanciano messaggi, ma perlomeno li verifichiamo e andiamo a vedere i numeri. No, mi scusi però, Presidente De Vita, lei dice c'è un differenziale storico tra quanto non quanto costa la benzina, ma diciamo quant'è più cara la benzina rispetto agli altri paesi europei. Da noi questo differenziale era sceso a 2,6 centesimi al litro, ma adesso denunciano appunto Adusbef e Federconsumatori, è tornato a 4,4 centesimi rispetto alla media europea, e siccome il petrolio lo compriamo tutti, diciamo, sullo stesso mercato, non si capisce perché sia aumentato di 2 centesimi il differenziale con la media europea. E invece, se avessero letto gli ultimi numeri, è sceso di è sceso a 2 centesimi e mezzo. Vede che questi lanciano messaggi, ma non guardano i numeri, non leggono le notizie. Cioè lei dice che non è vero che il differenziale con questa Europa è aumentato di nuovo a 4,4 centesimi? Dicono loro. Io le dico che è ridotto a 2 centesimi e mezzo. Presidente De Vita, io delle volte ho sempre la sensazione quando parlo con lei che al momento la benzina me la regala. Comunque, però adesso arriviamo anche al resto. Vorrei ringraziare invece per averci raggiunto in collegamento il sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico con delega all'energia, onorevole Stefano Saglia. Buonasera. Buonasera. Allora, fermo restando che il petrolio costava quasi il doppio, quasi la metà un anno fa, e che dice il Presidente De Vita non è vero, i prezzi non si sono mossi, le informazioni sono diverse, a noi risulta un differenziale di 4,4 centesimi. Io vorrei capire lei invece che cosa intende fare, visto che ha dichiarato sottosegretario Saglia non escluso un disegno di legge, immagino soprattutto sul differenziale, il divario tra Italia e gli altri paesi europei. Prego. Ma allora, innanzitutto noi ormai da diversi mesi stiamo lavorando, a volte con qualche incomprensione con gli operatori, ma sicuramente abbiamo avviato un dialogo molto forte con tutto il settore. Oggi siamo nelle condizioni di poter proporre delle soluzioni e queste soluzioni, siccome l'Italia le attende da troppo tempo, è necessario che le attuiamo al più presto. Alcune di queste possono essere attuate anche per via amministrativa, quindi senza bisogno, diciamo, di una legge, e quindi con un accordo con le compagnie, con i gestori e con i consumatori, e dall'altro, laddove sono necessarie delle modifiche normative, le faremo anche se riteniamo opportuno attraverso un provvedimento urgente, sapendo che comunque gli effetti e i risultati arriveranno con il tempo, perché si tratta di fare una vera e propria riforma della rete di distribuzione nel nostro paese. Ecco, riforma della rete di distribuzione o anche, diciamo, delle tasse, delle accise anticicliche, cioè che quando il prezzo del petrolio è molto alto, siccome lo Stato incassa già di più tra IVA e accise, può rinunciare un po' alla percentuale e all'aliquota fiscale? Ma guardi, io sono un tifoso della sterilizzazione dell'IVA, perché credo che sia una misura innanzitutto giusta, nel senso che elimina, diciamo, il cointeressamento dello Stato nell'andamento del prezzo del petrolio, perché non è che lo Stato debba speculare sui prezzi del petrolio. Sta di fatto che questa è una misura che dobbiamo comunque concertare col Ministero dell'Economia, e io spero che insieme al Ministro Tremonti, che ha deciso appunto di mettere mano a tutta la materia fiscale, anche questo aspetto sia tenuto in considerazione. Auguri, perché con i dati che abbiamo letto oggi sui conti pubblici, insomma, il Ministro Tremonti ha bisogno comunque di far cassa, lo dico non per giustificarlo, ma perché è un dato di fatto. Mi può dire ancora una cosa, onorevole Saglia, ma quando voi parlate di una riorganizzazione della distribuzione, cosa intendete più nel concreto? Minori pompe di benzina in modo... La diminuzione dei punti vendita è necessaria, 24.000 in Italia, 15.000 in Germania, 12.000 in Francia, si vede subito che la nostra è una struttura assolutamente diseconomica, ci devono essere degli incentivi, perché non è che si chiudono le imprese per legge, ma si può tranquillamente diminuire di 5-6.000 punti vendita, si può intervenire sul tema del self, perché arrivare all'80% del self vuol dire magari avere... rompere un po' la pigrizia agli italiani, ma vuol dire già oggi avere dei prezzi inferiori rispetto a quelli che sono quelli praticati, diciamo, con il servito, c'è tutto il tema del non oil, c'è la liberalizzazione degli orari, dei contratti, sono tutti argomenti che ormai abbiamo ben chiari. A questo punto spero che ci sia consapevolezza da parte di tutti e che ci possa essere un intervento anche di carattere legislativo. Presidente De Vita, su questo potreste avere un accordo? Se, come dice lei, 4-2 centesimi di differenza con il resto d'Europa derivano soprattutto dalla nostra rete distributiva? Esatto, l'esame è perfetto, anche perché le dico solo un esempio: le vendite medie di un impianto in Europa sono 3 milioni di litri, in Italia 1,5 milioni, il che significa che se in Italia vogliamo vendere 3 milioni di litri abbiamo bisogno di due impianti, due gestori e relativi costi. In Europa basta un impianto e un gestore. Seconda cosa, quando paragoniamo il prezzo Europa-Italia, dobbiamo tener conto che in Europa ci riferiamo a un prezzo fatto per il 95% self-service, si scende e si fa benzina da soli, in Italia questo è soltanto il 40%, quindi noi siamo d'accordissimo soprattutto sull'espansione del self-service, aumentare l'offerta del self-service in maniera tale che gli italiani scendano pure loro dalla macchina e si facciano benzina risparmiando qualche centesimo. Va bene, poi spero che non avvenga come è successo nella grande distribuzione, che aver ridotto gli esercizi commerciali non sempre ha portato a un abbassamento dei prezzi, delle volte ha portato a condizioni invece un po' di monopolio. Comunque, grazie e buona Pasqua al Presidente dell'Unione Petrolifera Italiana Pasquale De Vita. Buona Pasqua a voi, grazie. Grazie, e immagino che lei farà il pieno però, De Vita, così, sì, così certo. Verifica. Già l'ho fatto, aspetta, prima l'ha fatto due settimane fa, non mi dica che l'ha fatto due settimane fa, perché allora veramente... Non ci capiamo. Grazie anche al sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con delega energia Stefano Saglia. Buona Pasqua anche a lei. E da Sebastiano Barisoni è veramente tutto. Io ringrazio Mauro Del Cono, Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, Fabio Contadore in studio, e auguro a voi tutti buona Pasqua. Noi ci risentiamo non lunedì perché i mercati sono chiusi, il programma non c'è. Ci risentiamo martedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.